Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Alle 8 del mattino il piazzale della capitaneria di porto di Fiumicino è ancora deserto. Il sole è già alto e la temperatura di 28 gradi. Nonostante questo, io sono lì con i brividi e le mani fredde, come al solito, prima di un esame. Simone Ballarini, 29 anni, sono di Roma, sposato con un bimbo da 2 mesi. Tornate sani e salvi dal Vinitaly, dalla puntata di ieri in diretta da Verona. Io e Tiziano Bonini, insieme a Paolino Corleone, che però è rimasto qui, e a Margherita Hina, che è rimasta, credo, con Twitter aperto tutto il giorno. Vero, Margherita? Non riesce più a farne a meno ormai di questo profilo di Voi Siete Qui, che trova, vi ricordo, l'hashtag è Voi Siete Qui e invece il nome del profilo è Voi Siete Qui, banalmente. È così? Per VSQR24, perché la fantasia non ci difetta. Ringrazio tutti quelli che sono stati solidali con me ieri nel dirmi che forse era meglio lasciar stare, ma ringrazio anche quelli che si sono accorti che la puntata non è finita esattamente come è cominciata, a causa di una leggera differenza di gradazione alcolica all'interno del mio sangue. Ma tant'è, siamo qui, siamo ancora vivi, sono le 16:08, quasi 9. Questa è Radio 24 e la puntata di oggi è una puntata che parla del giudicare. Vi spiego perché. Perché Simone ci ha mandato un racconto in cui spiega che cosa gli è successo quando nel letto di un ospedale aveva deciso di lì a poco, o perlomeno quando tutto si sarebbe messo al meglio, passare un esame. L'esame era un esame di patente nautica, per cui semplicemente mettersi a studiare per poter portare delle barche a vela al di sopra dei 12 metri, poi entro o fuori le 6 miglia, quello poco importa. Poter avere la patente per portare la barca a vela. Ecco, Simone ci racconta di quel giorno lì, il giorno dell'esame, in cui c'ha non uno, ma credo 3 persone che lo giudicano. Vabbè, più o meno nel racconto si capirà meglio. E leggendo questa storia mi è venuto in mente che è facile mettersi nei panni di chi viene giudicato, perché tutti abbiamo fatto esami, tutti ci sottoponiamo ad esami una volta ogni tanto, dalla maturità in giù, l'università, ma anche i colloqui di lavoro alla fine sono una forma di esame. Mi piacerebbe però oggi mettermi dall'altra parte e quindi innanzitutto aprire il telefono, perché abbiamo delle splendide centraliniste di là. Adesso non so chi c'è, Nicole e Rosa credo ci siano oggi, se non sbaglio, che l'altra volta mi hanno cazziato perché non l'avevo nominata, quindi è giusto farlo oggi. Il numero è 800240024. Oggi mi rivolgo a professori, maestri, insegnanti di qualsiasi tipo, istruttori di qualsiasi tipo, giudici di X Factor, se c'è un Morgan qualsiasi all'ascolto, 800240024, ma anche magistrati. Ci sarà un magistrato all'ascolto che sarà in automobile, no? Capita anche ai magistrati di essere in automobile, e il numero di telefono è anche quello, ma anche appunto selezionatori del personale e arbitri, se ci sono arbitri di qualsiasi sport, calcio, pallavolo, tennis, qualsiasi sport ha un arbitro. Esiste uno sport senza un arbitro? Il golf forse? Il curling ce l'avrà un arbitro? Vabbè, chiediamo dopo a Gigi Garanzini. 800240024. La volta in cui giudicare qualcuno è stato veramente complicato, cioè quando avreste veramente preferito non essere nella condizione di dover giudicare qualcuno, per mille motivi, perché lo conoscevate, perché vi faceva troppa tenerezza, perché non lo so. Se però siete nella condizione di giudicare qualcuno, non dico tutti i giorni, anche una volta ogni tanto, e vi è successo di avere veramente desiderio di non trovarvi lì e di non giudicare quella persona in quel momento, 800240024 0024 oppure 349 238 6666. L'altra sera ho visto per sbaglio su una rete di quelle digitali un programma in cui c'è un famosissimo designer che si chiama Philip Stark, che fa uno di quei reality, avete presente? No, più che reality, cos'è? Un talent, no? Si chiamano così, talent show, va bene, in cui ci sono 12 partecipanti che devono lottare per diventare dei designer. Il programma si chiama Sognando Philip Stark. Hey. Philip Stark è l'uomo dietro alcuni tra i più famosi e riconoscibili oggetti di design del nostro tempo. E ora ha una missione: scoprire il miglior giovane designer tra 12 aspiranti in competizione. Don't exaggerate. Passione, talento, ambizione. Chi sbaglia è fuori. Vabbè, insomma, è un reality come un altro, è un talent come un altro. Però la cosa che mi ha colpito l'altra sera era vedere quanto fosse spietato Philip Stark, che a un certo punto si trova a dover giudicare un lavoro di questi ragazzi che lottano per diventare dei designer, e il vincitore credo vinca 6 mesi di contratto insieme a lui. La cosa però lì è che il giudizio ha a che fare con la persona, non è che giudica solo quello che fai, la sensazione è che giudichi chi sei, e c'è questa roba che è sei dentro o sei fuori, che è devastante. E io, anche se Philip Stark è una sorta di star che immagino sia pieno di soldi, non vorrei essere nelle sue condizioni, soprattutto in quel momento lì. Si chiama Design for Life il programma, Sognando Philip Stark. 349-238-6666, ma soprattutto 800-24-0024, la volta in cui è stato più difficile per voi giudicare qualcuno. Questa, dall'altra parte della barricata, è la storia di Simone. Alle 8 del mattino il piazzale della Capitaneria di Porto di Fiumicino è ancora deserto. Il sole è già alto e la temperatura è di 28 gradi. Nonostante questo io sono lì con i brividi e le mani fredde, come al solito, alla vigilia di un esame. I mesi precedenti erano stati un frenetico susseguirsi di lezioni teoriche e pratiche, di studio mnemonico ed esercitazioni in barca. Era stato necessario imparare velocemente un vero e proprio nuovo linguaggio, fatto di termini tanto altisonanti quanto buffi, tipo strallo, o cazzare, lascare, bozzello, baglio e molti altri ancora. E la sera aveva visto l'avvicendarsi della TV con le carte nautiche per gli esercizi di carteggio, e non potevo avere per le mani nessun cavo più lungo di una trentina di centimetri che mi serviva per provare i nodi con alterne fortune. Non ho mai avuto esperienze di vela né di nautica precedentemente, ma è sempre stata una mia passione, un mio pallino. Poi dopo un intervento chirurgico ho deciso di non rimandare più e provare a sperimentare e mettere in pratica questa mia passione. Alle 8.30 il piazzale è gremito di persone, colpite da vari stati d'ansia. Brandiscono cartelline contenenti squadre, goniometri e calcolatrici, manco fossimo al primo giorno delle elementari. Alle 9 l'ufficiale di turno fa l'appello. Le mie mani, già di ghiaccio, in un ossimoro dei sensi, iniziano a sudare. Contro ogni mio timore la prova di carteggio è più semplice del previsto, anzi, diciamoci pure, la verità è che è fin troppo facile. Ma nonostante ciò, la metà dei candidati non passa. Tra questi anche la ragazza che aveva tentato di copiare estraendo il più classico dei foglietti dall'astuccio. Giusto il tempo di un nuovo appello per identificare gli idonei e via di nuovo in aula ad affrontare i quiz. E lì un altro 30% di candidati deve arrendersi alle insidiose risposte multiple. Sulla soglia appare nuovamente l'ufficiale di turno, che invita gli idonei ad appropinquarsi alle barche per la prova pratica. Ovviamente, avendo scelto di ottenere la patente nautica per imbarcazioni sia a motore che a vela, in barca trovo un vero e proprio plotone. 2 istruttori, un esperto velico e un ufficiale della Capitaneria di Porto, oltre ad altri 3 miei compagni d'avventura. La voce carica di autorità e assolutamente priva di inflessioni di alcun genere chiede: «Chi comincia?» E in quel preciso istante mi sembra di essere tornato sui banchi del liceo, al momento dell'interrogazione. Gli sguardi fuggono ovunque, tranne che in direzione dell'uomo in divisa. Qualcuno finge indifferenza, qualcun altro, in preda ad allucinazioni uditive, scende sotto coperta per prendere un cellulare che ovviamente si è guardato bene dal suonare. In questo fuggi-fuggi generale mi ritrovo faccia a faccia col mio esaminatore, che con un cenno del capo mi invita a prendere il timone. Quello che è straordinario è il senso di libertà e di assoluta tranquillità che dà la barca a vela quando si è nel nulla in mezzo al mare. Mi fa paura prevalentemente il non avere tutto sotto controllo e la necessità di avere un grado di esperienza altissimo. Con piglio deciso usciamo dal fiume e a distanza di sicurezza impartisco a voce alta gli ordini per rissare le vele. Prima la randa, poi il fiocco, poi una virata e il recupero dell'uomo a mare, centrato al primo colpo. Solo un ultimo brivido per un trabocchetto tentato dall'esperto velico, prima del fatidico «cedo comando, andatura di bolina, prua 40 gradi». Ore 13.30, facciamo ritorno verso il porto. Al timone c'è l'ultimo candidato. Con una mano mi tengo ad una delle sartie, fissando l'orizzonte con un ampio sorriso. E il vento sul volto, esattamente come me l'ero immaginato 4 anni fa, quando ero immobile in un letto d'ospedale e decisi che quando tutto ciò sarebbe finito non avrei più rimandato e avrei preso la patente nautica. Ripensare a quel freddo giorno di febbraio oggi mi dà quasi un senso di benessere. La stessa sensazione ogni qualvolta si esce da una tempesta per tornare a navigare in acque sicure e baciate dal sole. I wish I was in London or some other seaport town. I set myself on a steamship and I'll see the ocean round. While sailing around the ocean, while sailing around the sea, I dream of handsome Molly wherever she might be. Her hair is as black as raven, her eyes as black as coal, her teeth are like lilies that in the morning glow. Oh, don't you remember Molly, you gave me your right hand, you said that if you marry, well, I would be your man. C'è una piccola parte della mia vita che è dedicata ad insegnare. Insegno una cosa di cui oggi in realtà si potrebbe fare a meno, e lo faccio come meglio mi riesce: andare in barca a vela. Non c'è un motivo pratico per cui qualcuno nel 2012 debba imparare a navigare senza un motore. Il motivo è puramente ludico o diportistico, appunto. In realtà lo faccio sempre meno e sempre peggio. Quando posso, però, vado in uno dei posti più belli d'Italia, che è l'isola di Caprera, dove c'è la più antica scuola di vela. È lì che ho imparato e cerco di trasmettere il poco che so. A dire la verità, però, ogni volta che mi trovo davanti a un gruppo di persone che si aspetta che io insegni loro qualcosa, è come se il velo di finzione calasse e io mi trovassi nudo davanti a loro e davanti a quella verità, alla verità che io non so nulla e che quel poco che so è troppo poco per poter fare ed è ancor meno per poterlo insegnare. E quindi ogni volta che qualche allievo alza la mano, io immediatamente penso: eccolo qua, sta per chiedermi qualcosa a cui non saprò mai rispondere. Eppure penso che questa sia una cosa che tutti dovrebbero provare. Insegnare, dico. E non parlo solo della vela, No, intendo dire passare delle nozioni, qualsiasi esse siano, a qualcuno che le vuole conoscere, ovviamente. Anche se si tratta semplicemente di insegnare a sbucciare dei fagiolini o a usare un computer. Nel passare la conoscenza c'è come una forma di generosità. È un po' come quando hai un ospite a cena ed è a casa tua e tu gli cucini una cosa che hai preparato tu. Ti fa felice vedere che lui se la mangia, no? Che se la gusta. E quando stai davanti a un gruppo di persone che ha un dubbio semplice, no? Il dubbio del come si fa. È bello poter avere la preparazione e la sicurezza per dire: si fa così. Ne parlo oggi di questa cosa perché ho letto e vi ho raccontato la storia di Simone. Perché di fatto lui si è sottoposto a un esame per ottenere la patente nautica e quello stesso esame qualche anno fa l'ho sostenuto pure io. Solo che leggendolo mi sono sentito non dalla sua parte, per una volta, ma dall'altra. Per stavolta mi sono sentito dalla parte degli esaminatori, perché ogni volta che tengo un corso di vela, banalmente dopo aver spiegato e insegnato, mi tocca dare un giudizio. Non ci posso far niente, è la scuola che funziona così. Quindi alla fine della settimana di corso io devo compilare delle schede con delle crocette e in sostanza dire se l'allievo è idoneo o meno a passare al corso successivo. È una delle poche volte in cui mi trovo a dover dare un giudizio su qualcosa o su qualcuno e non è per niente una situazione che mi piace. C'è qualcosa di inevitabilmente e silenziosamente arrogante nel dover dire tu sì, tu no. E lo so, ovviamente lo so che in quei casi tu non rappresenti te stesso, ma rappresenti qualcosa di più grande, no? Una scuola, un'istituzione, un'azienda. Però essere giudice è sempre una posizione scomoda. Credo sia questo il motivo per cui chi lo fa sul serio, chi deve prendere decisioni che segnano fortemente la vita di un individuo, cerca di non conoscerlo, di non avere relazioni con lui. Credo che sia impossibile essere obiettivi se conosci la storia di qualcuno. Che so io, se scopri che un anno prima di quel giorno aveva avuto un incidente in auto perché stava piangendo dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, o che magari invece proprio un anno prima aveva gioito come mai dopo essere stato assunto da una piccola azienda di provincia, o che ne so, che per il compleanno di sua mamma le aveva regalato la gigantografia di una foto in cui lui da piccolo la bacia su una guancia e sorride. No, credo che nessuno dovrebbe e potrebbe dare giudizi se è intimo di qualcun altro, perché non sarebbe lucido. Io vorrei non doverne più dare, e se proprio necessario, promuoverei tutti, sempre e comunque. In fondo tutti siamo sottoposti a giudizio ogni giorno nella vita e qualsiasi cosa diciamo ci torna indietro. Ecco perché ringrazio Stefano che dice: Matteo, metti la testa a posto, che alla tua età c'è gente che allena l'Inter. 800240024, si parla di dare giudizi e della difficoltà di dare un giudizio. Simone l'ha ricevuto un giudizio ed era positivo in quel caso. Pronto Simone? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Tu? Io alla grande. Senti, soprattutto dopo ieri, dopo essermi carburato con quattro bicchieri di vino. Senti Simone, ed essere ritornato a Stemi, lo dico per mia mamma all'ascolto che era terrorizzata, ieri mi ha chiamato in macchina dicendo: stai guidando tu, fai guidare Tiziano, mi ha detto. Senti Simone, il racconto che ci hai mandato risale a quando? A circa l'estate scorsa. Quindi quasi un annetto fa. Quindi dall'estate scorsa hai già portato fuori amici facendo lo skipper e bullandoti del venite con me che ho la patente nautica? Assolutamente sì, ho provato almeno, diciamo così, abbiamo provato un giorno e durante il quale ho avuto la riprova che prendere quell'abilitazione non ti dà alcuna non ti dà certezza. Assolutamente, di... questo è giusto saperlo, cioè non è che perché passi un esame, come dice il papà di un mio carissimo amico, non è che se passi l'esame sei subito professore, no, al contrario. Esattamente il contrario. Simone, cosa fai nella vita? Il venditore, vendo prodotti di carta. Prodotti di carta, nel senso che roba... Sì, nel senso tovagliolini, carta igienica, asciugamani. Simone, mi piace perché sei allegrissimo nel raccontarlo. Sì. Dove lo fai? Dove lo fai? Dove vivi? Io vivo a Roma e lo faccio per tutto il centro Italia, e proprio nell'azienda di Milano. E dove ti trovi adesso? A Milano, perché abbiamo una serie di riunioni e... Quindi sei tipo chiuso in un bagno mentre dall'altra parte c'è una riunione fondamentale per il tuo futuro? Esatto, sono chiuso nella sala mensa nel frattempo che vanno avanti con sciorinare fatturati. Senti, invece però prima di dare e passare quell'esame lì, quindi di avere un giudizio positivo all'esame della patente nautica, tu hai deciso di farlo praticamente durante una specie di altro esame, giusto? Dicevi 4 anni prima eri in un letto d'ospedale, per che motivo? Perché una banalissima influenza era arrivata al cuore e quindi ho passato quasi 6 mesi in ospedale aspettando di poter essere operato, e durante quei 6 mesi in cui tempo per pensare ne avevo abbastanza, assolutamente sì, e avevo deciso di non procrastinare più alcune decisioni, alcuni piccoli sogni che avevo sempre dovuto realizzare e poi rimandavo in continuazione. Ovviamente poi è servito un po' di tempo per metabolizzare il tutto e sono passati quasi 4 anni prima di farlo effettivamente. Però Simone, senti, poi ti saluto che devo mandare la borsa e tu hai una riunione da seguire. Hai già altre uscite in barca pronte per quest'estate? Spero proprio di sì, spero di fare qualche weekend già a partire dalla fine della primavera. Grazie per il racconto e per la chiacchiera Simone, buona giornata. Grazie a te Matteo. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Sono un istruttore di volo, la volta più difficile è stata quando mi è andato in panico l'allievo in volo. Voi siete qui. Non poteva che mandarci giustamente una foto al timone di una barca, Simone, vestito da marinaio. Non capisco se ha un cappello in testa o se sono o se ha un ciuffo che gli scende. Vabbè, è la cosa meno importante. È più importante che si sia sottoposto al giudizio degli istruttori, che abbia passato l'esame e che in questa foto sia fierissimo con la ruota del timone fra le mani. Però poi occhio, perché la figurina è sempre dietro l'angolo, eh. In barca, appena ti senti figo, pam! e la figura è subito lì. 349-238-6666 800-24-0024. Si parla di dare giudizi e di giudicare e della difficoltà di farlo. I giudizi che devo dare ai bambini, mi scrive una maestra di Brescia, i miei alunni. Oggi giornata di colloqui, oggi, quindi oggi pomeriggio, non c'è cosa più difficile che dare un giudizio davanti agli occhi dei genitori che pendono dalle tue labbra. Una gran responsabilità nei riguardi dei futuri uomini e donne di domani. Firmato una maestra precaria da Brescia. Qui c'era la polemica, ovviamente, subito precaria. Non è scritto in maiuscolo, ma è come se fosse. Ciao, sono istruttore di Nordic Walking, camminata nordica con bastoncini. Ma Mirko, ma perché Mirko, ci sono istruttori di Nordic Walking? Cioè, nel senso che bisogna fare un esame per fare Nordic Walking? È successo ritrovarmi in difficoltà nel giudicare un amico, partecipante a un corso base, che non ce la faceva proprio a capire cosa e come fare i passi giusti. Era il peggiore del gruppo, avrei voluto essere altrove. Infatti questo è proprio il problema dell'avere a che fare con gli amici quando devi dare un giudizio. Dare un giudizio, mi scrive Pio, non è mai cosa facile, ma molto dipende su che e per cosa. E va bene. Io insegno a dipingere, ma se qualcuno sbaglia, è relativo e non pericoloso. E beh, certo, perché la pittura... Bonini, non fare quella faccia, come dire che la pittura, nella pittura vale tutto. Però, sai cosa? Se ci fosse anche un critico all'ascolto, uno che critica, questi critici di cibo, ormai è pieno, no? Se è pieno di programmi di cibo, sarà pieno anche di persone che li critica. O un critico teatrale, o un critico cinematografico. Però secondo me è diverso, perché quando lo scrivi è proprio diverso, non dai un voto. Beh, no, Dio, il voto lo dai, però è più facile scriverlo su carta che una roba ti ha fatto schifo invece che dirgliela in faccia. Ciao Matteo, secondo te con il sugo di pesce è meglio spaghetti numero 3 o numero 5? Per la serie messaggi fuori contesto, Bonini dice numero 5, ma io non me la sento di dare questo giudizio. Andiamo però a sentire qualcuno che giudica e lo fa di mestiere, Mara da Udine. Pronto Mara? Ciao. Ciao, come stai? Un saluto a tutti. Bene, grazie. Sei partita subito ecumenica, un saluto a tutti gli ascoltatori. Certo, Mara, un giusto di gentilezza. Che cosa fai nella vita? Io sono responsabile dell'ufficio personale. Di che cosa, scusami? Di un ente locale. Di un ente locale che gestisce 15 comuni. Quindi noi stiamo parlando di concorsi pubblici in questo caso. Esatto. Quindi tu ci vuoi dire ufficialmente in diretta, Mara, che non tutti i concorsi pubblici sono già pianificati con tutti quelli che passano pronti e segnalati? Purtroppo non è così. Come purtroppo non è così? No, perché tutti lo pensano e quindi si va contro un pensiero. Ah, si va contro un pensiero. Cosa stai facendo nel frattempo? Perché tutto è truccato. Cosa stai facendo? Sto passeggiando fuori mentre mio figlio va in bicicletta. Senti, quando è stata la volta in cui è stato più difficile giudicare qualcuno? Purtroppo è difficile quando, come dicevi prima, ci sono conoscenze. Quindi conosci chi stai valutando. Perché le norme sul pubblico impiego prevedono che tu non puoi essere parente, però purtroppo, essendo stato anche dall'altra parte, li conosci. Sì. E quindi quando giri, sei dall'altra parte, vai a fare una valutazione di gente che conosci. Fammi un esempio però, Mara, che ruolo era, di cosa stiamo parlando, o non puoi farlo? Faccio in generale, un'assunzione presso un ente locale nella quale io sono stata dalla parte di chi doveva giudicare quando 5 anni prima ero dall'altra parte con il concorrente che doveva andare a valutare. Ho capito, cioè eravate colleghi nell'essere concorrenti. Ma scusami, cosa si domandano in un concorso pubblico? Cioè qual è l'argomento? Qual è la materia? Allora, dipende innanzitutto da che assunzione devi fare. Se è un'assunzione, ad esempio, di un ingegnere, dovrei fare delle domande tecniche che riguardano il diritto amministrativo. E tu sai fare domande di qualsiasi tipo? No, abbiamo ogni... commissario ha delle competenze. Esatto. Qual è la tua competenza, Mara? Io sono diritto amministrativo e quello che riguarda il pubblico impiego, personale del pubblico impiego. Mara, ti ringrazio moltissimo, ti lascio a tuo figlio e buona fortuna. Grazie. Ciao, grazie. Mi aspettavo che dicesse grazie a tutti, perché era partita così. Andiamo, io veramente loro cercavo oggi, cercavo un arbitro di calcio. Michele. Sì, pronto? Pronto Michele, ci sei? Ciao Matteo. Ciao. Non lo fai di mestiere, vero? No, non è di mestiere, meno male che non è mestiere. Che lavoro fai? Che lavoro normale fai? Quello per cui non ti insultano tutti i giorni, qual è? No, io faccio il fattorino. Ok. Vado con un'auto tutto il giorno. E sei arbitro di che categorie? Ma categorie io arbitro dagli esordienti fino alle prime squadre, diciamo promozione, eccellenza, seconda categoria. Senti, tra l'altro sei in auto perché sento le quattro frecce proprio sparate. No, sono fermo. Senti, invece dimmi qual è stata la volta in cui è stato più difficile giudicare. Niente, la volta è stato più difficile giudicare è successo in un campo di calcio dove giocavano due squadre che si giocavano il titolo. Sì. Quindi è una partita molto importante, una partita molto tesa, dura e nervosa. A due minuti dalla fine il risultato era 1-0, tra l'altro queste due squadre erano a pari punti, sì. vinceva il titolo. A due minuti dalla fine c'è stato un brutto fallo sulla linea mediana del campo. Sulla linea mediana del campo, ti ringrazio per averlo detto, la linea mediana del campo. Era da quando sentivo Radio 1 che dicevano linea mediana del campo. Come il centro mediano di una Certo, come si invola sulla fascia. Scusa, finiamo perché abbiamo poco tempo, Michele. Sì, niente, c'è stato un brutto fallo, uno praticamente ha segato un avversario. Io giustamente, anche se la partita era molto dura, ho dovuto espellere questo giocatore. No? E com'è finita? No, due secondi vi spiego. Questo giocatore che è stato espulso è venuto da me, mi ha stretto la mano e sta andando via. Mi ha detto scusi, sì, sì. Questo che ha subito il fallo, no, si è alzato mentre l'altro parlava con me e ha fatto il gesto più brutto che si può fare in un campo di calcio. Gli ha sputato in faccia. È gente tranquilla quella che arbitri, insomma. Gli ha sputato in faccia e io cosa ho fatto? Ho pensato dentro di me. Tra l'altro anche fuori dagli spalti c'è una tensione altissima. Immagino. Ho detto, se espello anche questo, qui mi ammazzo. E quindi? No? Ma io non potevo non espellere anche l'altro, buttato fuori anche l'altro, non ti dico cosa è successo. Una rissa generale, invasione di campo... Ma fortunatamente nessuno se l'è presa con me. Perché c'è stato talmente tanto casino che te la sei data. Michele, grazie mille. Niente, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, anche te. Tra l'altro, prima di prendere l'ultima telefonata, avevo letto una cosa interessantissima di un giornalista storico. È uno storico inglese che scrive su un giornale italiano che si chiama Internazionale, che parla degli arbitri. E dice: secondo me, l'arbitro in Italia è una figura quasi tragica. Gli arbitri sono condannati per il fatto di applicare la legge. E cita Gianni Brera che dice: l'arbitro è un prepotente che insiste nel ritenere che la legge vada rispettata anche a costo di infastidire il prossimo. Sentiamo Roberto per l'ultima telefonata al volo. Pronto Roberto? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, benissimo. Dimmi. Senti, abbiamo solo 30 secondi. Mi dici quando sei istruttore di Aliante? Io ero istruttore di volo in Aliante, sì. E facevo l'istruttore di primo periodo, prendevo le persone dai primi voli fino a quando dovevano volare da soli. Sì. E con loro durante il percorso istruzionale si diventava amici, un po' come dicevi tu, sì, immagino. Istruttore di vela, quindi nel momento in cui dovevo farli volare da solo, perché erano pronti e così, dovevo giudicarli non tanto sulle abilità pilotesche, ma su delle abilità, su delle capacità umane. Sì, sì. E per quanto appagante, bello e tutto, io non avrei voluto essere lì mai, perché lui o lei potevano anche essere emozionati e farlo, sì, vedere. Io lo immagino. Non potevo farlo vedere, dovevo dimostrarmi forte e sicuro, perché, Roberto, perché avevo un aeroporto che mi guardava. Lo immagino, ti ringrazio moltissimo, purtroppo devo salutarti, grazie ancora. Ciao, però Matteo. Ciao, buona giornata. Chiudiamo con la storia di oggi, che era la storia di Simone, e grazie a lui quella di domani invece è la storia di Giulio, e parla dell'essere un messaggero. Non ricordo con precisione cosa dissi. So solo che cercai di non mentire, di non illudere con una bugia come spesso si fa. Dissi che il loro ragazzo non ce l'aveva fatta. Mi resi conto delle mie parole quando i loro visi si fecero bianchi e si accasciarono sulle sedie della cucina. Io istintivamente li abbracciai, come se questo li potesse aiutare. E invece aiutava me.